Yeah, questo è Pac, Django, inalterabile mixtape, discorsi, yeah. E vengo da lontano, uomo, no, non so se sai, do tutto me stesso, non ho niente da perdere. Il destino ascolta poco e non parla mai, gli ho chiesto di fare scelte. Solo dopo aver letto le mie lettere, yeah. Solo dopo aver letto le mie lettere, solo dopo aver letto le mie lettere, Yeah, uomo credimi, ho poco da perdere, ma lotto ancora perché giuro che odio perdere. Odio ammettere, a volte sono stato debole, ho perso lucidità e riflessi, volevo riflettere. Vorrei poter scegliere, davvero essere. Stanotte scrivo, ho scelto di trasmettere. Ho scritto mille lettere al destino, con lacrime e sangue al posto dell'inchiostro, e manco so se sappia leggerle. La gente parla come fosse Dio in persona, il destino tace perché dia l'ultima parola. E quando mi prende a schiaffi in faccia, non porgo l'altra guancia, sai, preferisco offrire la gola. Le gambe non bastano, serve mette per muoversi. La vista non basta, serve senso per accorgersi che siamo troppo lontano da questi stronzi ipocriti che ascoltano storie e fanno finta di commuoversi. Ma non sono loro che mi farà smettere, che ci credono, no, ho poco da perdere, ma devono ammettere, ora sono più lucidi, li ho aiutati a riflettere. E vengo da lontano, uomo, non so se sai, do tutto me stesso, non ho niente da perdere. Il destino ascolta poco e non parla mai, gli ho chiesto di fare scelte. Solo dopo aver letto le mie lettere, solo dopo aver letto le mie lettere, solo dopo aver letto le mie lettere. Uomo credimi, ho poco da perdere, ma ho chiuso gli occhi solo per meglio apprendere. Il suono di sta musica è mio mentore, mi ha dato lucidità e riflessi, mi ha aiutato a riflettere. Vorrei poter scegliere, diffidare o credere. Stanotte ascolto, qualcuno vuol trasmettere. Il destino ha scritto poche lettere, gli rispondo con lacrime e sangue, finché il cuore riesce a reggere. La gente parla come se Dio sia persona, il destino aspetta la sua sentenza, per questo non ci ascolta. E quando mi bacio una guancia, raramente porgo l'altra, sai, preferisco i baci in bocca. Do tutto me stesso e non posso smettere, che perdono fratello, io ci voglio credere, ma devo ammettere. La luce del destino si vede raramente, il buio serve a riflettere. E vengo da lontano, uomo, non so se sai, do tutto me stesso, non ho niente da perdere. Il destino ascolta poco e non parla mai, gli ho chiesto di fare scelte. Solo dopo aver letto le mie lettere, solo dopo aver letto le mie lettere, solo dopo aver letto le mie lettere. E vengo da lontano, uomo, non so se sai, da tutto me stesso, non ho niente da perdere. Il destino ascolta poco e non parla mai, gli ho chiesto di fare scelte. Solo dopo aver letto le mie lettere, solo dopo aver letto le mie lettere, solo dopo aver letto.